Vai Milan, vai, vai, inizia la puntata prima che il mercurio nelle vene mi trasformi in un robot e il 5G mi devasti. Dai Milan, vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui, cari ascoltatori, 9 e 7 minuti tra qualche secondo, per la precisione tra un secondo, ora, questa è l'ora ufficiale di Radio 24 che segna l'ora ufficiale di tutta la nazione. Ci siamo, 800 24 00 24, per chiamarci, stare in compagnia nostra, di Lorenzo Nespoli, di Miriam Lucchetti, di Elisabetta Fusconi, la nostra redazione, del nostro alpino in regia, di Leonardo Vestagliona Manera. Lo dico già, Vestagliona Manera, capite che dico Vestagliona perché oggi sarà collegato. Ci sarà? Alle 9:30, come dice lui, più o meno, in qualche modo ci sarà. Manera Zetung! Altro che Manera Zetung, non è uno con la cultura del lavoro, Vabbè, dai, non iniziamo a irriderlo, sennò dopo quando arriva si arrabbia. Siamo qui con voi, 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, i vostri modi per dire la vostra in presa diretta, però devo aprire la schermata dei WhatsApp, sennò voi scrivete, ma io non leggo nulla. Siamo pronti, oggi abbiamo una puntata ricchissima, parliamo di dipendenti pubblici, parliamo di Lampedusa, avremo il sindaco di Lampedusa, c'è una proposta oggi uscita sui giornali di rendere Lampedusa porto franco, cioè non far pagare le tasse. Insomma, tante tematiche, parleremo anche di questa modella armena che è finita in un fuoco di fila di critiche per la sua scarsa, presunta scarsa bellezza, ebbene sì, quello che si chiama body shaming, lo faremo nella seconda ora, tornerà con noi Giulia Crivelli. Vai Alpino! I will not be easy and it will not be easy. Aia, aia, non sarà facile, nelle parole del Premier Conte. Non sarà facile, nelle parole un po' così saltellanti del premio. No, non sarà facile. Non sarà facile anche perché oggi mi ha colpito il sondaggio di Ilvo Diamanti. Come sempre, sondaggi precisi su Repubblica. Preciso e sospiro purtroppo anche al risultato sconfortante. Signori, 8 italiani su 10 hanno paura del virus. E io so già che voi direte, molti di voi diranno, oh, cavolo, solo 8 e gli altri 2? No, no, io dico, pensate, 8 su 10 hanno paura del virus. Qui adesso iniziano a dire, ah, e tu non hai paura. Ho paura anche dello smog, se per questo, vivo a Milano. Siete in una grande città, non avete paura dello smog? Perché avete più paura del virus e non avete paura del colesterolo quando vi ingozzate nelle vostre cene e nei vostri pranzi luculliani? Guardate che fa male il colesterolo, Crea danni terribili nel tempo. Perché avete paura del virus e poi bevete come delle spugne o fumate come si direbbe, come dei turchi, anche se non si capisce, poi non è neanche simpatico verso i turchi. Perché avete paura del virus e andate a 180 all'ora in autostrada in disprezzo di ogni regola, magari dopo aver anche bevuto, sorpassando a destra, saltando di corsia in corsia, senza regole? Non avete paura quando fate questo? Io ho paura, lo ripeto, l'ho detto anche ieri, a salire in sella su uno scooter e andare nel traffico di Milano. E invece, cioè, ci sono tante cose che fanno paura, ma adesso c'è il virus, il Covid. La paura del virus, 8 su 10 secondo questo sondaggio di Ilvo Diamanti, Repubblica, pagina 9, hanno l'inquietudine che pervadeva prima gli anziani, adesso generazioni sempre più giovani, i giovani, e cambia anche, sondaggio appunto Demos Ilvo Diamanti, la demografia e la geografia di chi ha paura. Soprattutto cresce la paura nelle regioni del centro e del sud molto più che nel nord. La paura. La paura poi porta alla paralisi. Io, ieri la notizia era sul giornale, oggi viene ripresa e rilanciata da tutti i quotidiani. La scuola di Verbania, dove doveva partire il piano di recupero degli studenti con materie insufficienti a partire da oggi, una professoressa positiva, asintomatica, lo sottolineo perché lo sottolineo nei giornali, positiva anche se asintomatica, tutta chiusa la scuola, bisogna sanificare, tutti a casa, piani di recupero saltati, c'è il tempo di sanificare, con queste regole sappiamo cosa succederà a tutti i nostri figli. Tutti a casa. Infatti in un incontro con l'OMS, il ministro della Salute Speranza, come viene ripreso da vari giornali oggi, ha già detto: è realistico preparare e pianificare la disponibilità dell'apprendimento online per integrare l'apprendimento nel prossimo anno scolastico. Cioè, insomma, come dire, preparatevi, cari ascoltatori e cari italiani, perché stiamo già pensando alla didattica online, è meglio non essere spiazzati. Ma tanto così andrà a finire, un altro anno buttato via. E non lo so, io penso ai miei figli come qualsiasi genitore pensa ai propri, e a una generazione che crescerà con dei buchi formativi enormi. Già in Italia ne abbiamo abbastanza, già la scuola non è in primo piano, chissà. Leggo solo, per concludere questa introduzione, l'intervista sul Quotidiano Nazionale di Silvia Bini a Francesca Sivieri, insegnante, è quell'insegnante che se la prese coi sindacati quando lei iniziò a fare alcune lezioni in un giardino pubblico, i sindacati se la presero, forse ricordate, insegnante di Prato. Ecco cosa risponde sulla paura, parole secondo me sante: non ho paura del virus, nel momento in cui nasciamo la vita ci mette davanti a rischi che dobbiamo affrontare. Il rischio di oggi si chiama coronavirus e io lo vivo con la stessa preoccupazione di quando esco di casa e attraverso la strada. Oh, ma non sono esatte, io sposo in pieno queste parole. Adottando i giusti comportamenti credo si possa tornare alla normalità. La maestra dice: basta scuse, torniamo in cattedra, torniamo a scuola. Ma c'è la paura, c'è la paura. Questo mi permette però di introdurre questa frase: basta scuse, torniamo in classe o torniamo a lavorare. L'ospite di oggi, che saluto con piacere, ha un po' terremotato con quella che è stata definita una circolare del terrore, la regione Sicilia. Salvatore Tuccio D'Urso, direttore generale del Dipartimento Energia della Regione Siciliana, da oggi in pensione. Buongiorno, dottor D'Urso, e grazie. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Quando si dice da oggi in pensione, si dice, non lo so, complimenti. Lei in realtà non è molto soddisfatto. No, perché il governo per ben due volte ha cercato di far passare una leggina in assemblea regionale con i poteri della nostra autonomia, perché io con un'altra decina di colleghi anziani potessimo restare fino a 70 anni, cosa che peraltro avviene nel resto del pubblico impiego anche nazionale, sì. Avviene nella sanità eccetera, ma il Parlamento per due volte ha bocciato. Scrutinio segreto, tenga conto che in Sicilia lo scrutinio segreto si può utilizzare sempre, non in maniera eccezionale come nel Parlamento nazionale e come non si può utilizzare da nessun'altra parte d'Italia, e quindi al scrutinio segreto poi evidentemente la maggioranza si è un attimo persa, compattata, si è compattata una maggioranza contraria a questa regione. Forse riusciremo a capire il perché spiegando agli ascoltatori. Devo fare un passo indietro. Presidente della regione siciliana Musumeci a inizio agosto dice questo dei dipendenti della regione siciliana: 13.000, sentite bene con che parole dure. 13.000 dipendenti, dei quali l'80% assolutamente improduttivi. Ma non lo dite ai sindacati, non lo dite ai sindacati. Improduttivi, si grattano la pancia dalla mattina alla sera. E ora per giunta vogliono stare ancora a casa con il cosiddetto lavoro agile. Ma se non lavorate in ufficio, come pensate di poter essere controllati a casa? Queste le parole durissime. E lei, dottor D'Urso, pochi giorni dopo fa una circolare con la quale richiama il personale, i dipendenti, a dire venite a lavorare. La riassumo molto, molto brevemente, insomma. Perché ha fatto questa circolare? Questa osservazione ad un convegno organizzato sull'energia, organizzato dal mio dipartimento, sì. E aveva davanti, scusate, per contestualizzare la battuta del presidente, una platea piena di imprenditori, delle massime autorità nazionali, dei presidenti delle associazioni, fra cui quella di Confindustria, di Energia Futura, eccetera, una platea gremita di addetti ai lavori, che gli avevano manifestato la volontà e la voglia di investire in Sicilia. Uh-huh. E il presidente a questo punto gli viene un impeto di, tra virgolette, di rabbia, dice: ma io da presidente che risposte do a tutta questa gente, siciliani e non siciliani, che mi chiede lavoro, che mi chiede di velocizzare gli investimenti? Però con questa rabbia ha definito l'80, e penso che lo pensi davvero, ha detto quello che pensava distinto, l'80% improduttivi, cioè non lavorano neanche in ufficio, figurarsi a casa. Perché noi abbiamo una norma del 2000 varata dal governo di centro-sinistra per del todo scaballeros, cioè in Sicilia lavorare o non lavorare nell'amministrazione regionale non fa succedere nulla, perché nessun provvedimento né economico né sanzionatorio può essere preso, o premiale, sì, può essere preso a favore di chi lavora, quindi premiale ed economico, sì, o contro chi non lavora, manifestatamente non fa nulla. Poi, quindi, si dice l'Italia, il punitivo è anch'esso economico, sì, al contrario. Poi si dice l'Italia premi il merito. Lei giustamente dice non c'è neanche lo strumento per premiare chi, esatto, si distingue, esatto, in positivo. Esatto. Ma è vero che, esatto, lei li ha definiti fancazzisti? E forse in un'intervista. Sì, non c'è dubbio, perché i primi che ad appoggiare questo ragionamento è il peggio del sindacato, che in forza di questa norma difende l'indifendibile. C'è un sindacato che non si rende conto che l'obiettivo comune è spendere i fondi europei, sviluppare gli investimenti, far funzionare la macchina alla perfezione, dare risposte in tempi previsti dalla legge alle istanze. Questo sindacato è un autentico avversario della Sicilia, c'è un sindacato non corporativo, un sindacato oscurantista, un sindacato che difende il fatto, ad esempio, che il salario aggiuntivo debba essere uguale per tutti. È un sindacato folle, un sindacato che non partecipa agli obiettivi dei dipartimenti sindacali. È un sindacato da riformare. No, lei è molto, molto arrabbiato. Le posso chiedere questo? Prego. Attualmente quanti dipendenti della Regione Sicilia, certo lei conoscerà forse il suo dipartimento, ma in generale quanti sono ancora in smart working? Ecco, chiamiamolo. Il numero sono quelli di legge. Anch'io andando via ho salato alcune situazioni in cui anch'io ho messo qualcheduno, ma il concetto qual è? Il concetto è quello, è un concetto tecnico. Se le amministrazioni, e la mia in particolare, cosa che ho verificato ed è così, hanno una capacità informatizzata e digitalizzata di rispondere alla loro utenza, mm-hmm, lo smart working ha un senso. Sì. Cioè, se il front office e il back office sono digitali, il tuo lavoro, sì, lo puoi svolgere, sì, da qualunque parte perché del mondo. C'è gente che non ha neanche il PC a casa, magari. Bravissimo. Ah, ma se l'amministrazione è ancora basata sulle carte, sull'archivio cartaceo, sulla domanda che ti arriva per posta, sul fatto appunto che non sei abituato a lavorare, e allora lì lo smart working è una presa in giro, insomma, è una presa in giro per il contribuente italiano che poi paga lo stipendio a chi praticamente non fa nulla. Guardi, dottor D'Urso, io ho chiamato una persona che la sta ascoltando e voglio salutare. Con piacere torna con noi, è insegna diritto costituzionale, è uno scrittore, uno dei libri quest'anno che ha scritto è nato prima l'uomo o la carta bollata, con un punto di domanda, il professor Alfonso Celotto. Ben ritrovato, professor Celotto. Buongiorno, sempre con piacere. È sempre a difesa della buona burocrazia. Ecco, la buona burocrazia, che come lei spiega anche in questo libro è un prodotto della rivoluzione francese. Ce l'aveva già detto, ma ce lo vuole vuole spiegare, perché uno dice la rivoluzione francese ha fatto tante buone cose, ha sviluppato l'uguaglianza, i diritti per tutti, ha fatto nascere anche la burocrazia, che uno ora potrebbe dire maledetta rivoluzione francese. No, non sia mai, no, perché no, no, anzi. Ed è esattamente quello che sta dicendo, cioè l'eguaglianza, i diritti, e quindi lo Stato, e anche lo Stato amministrativo, l'amministrazione non deve essere più gestita dal re, dal conte, dal duca, che decidono un po' così come gli pare, no? Sì. A simpatia, antipatia e l'assolutismo. No, bisogna decidere in maniera automatica, in maniera imparziale. Ecco allora che creo una serie di funzionari che devono applicare la legge, no? Il principio di legalità, la legge approvata dall'Assemblea dei cittadini in maniera uguale per tutti. Mm-hmm. E quindi è da lì che nasce l'idea non più di uno Stato assoluto a dipendenza della simpatia del re, ma di uno Stato che applica la legge in maniera uguale per tutti, e quindi ti servono i funzionari. Sì, questa è la buona burocrazia. Certo, che cosa succede? Prego. Che cosa succede? Succede che i funzionari devono essere divisi col principio della divisione dei poteri, perché altrimenti tu hai tutto in capo a uno solo che fa tutto e quindi diventa come il re. Allora devi spezzettare tutta la serie di attività e crei l'ufficio per l'ambiente, l'ufficio per i beni culturali, l'ufficio per l'energia, e quindi poi questi uffici devono parlare fra di loro e devono cominciare a far girare carte fra di loro, perché ovviamente devono dare il segno, il percorso di ciò che è accaduto, del procedimento. E addirittura già nel 1853, quindi stiamo parlando di una cinquantina d'anni dopo la Rivoluzione francese, già Cavour in Parlamento si lamentava dell'andirivieni di carte fra gli uffici. Accidenti, sì. Perché che succede? Cioè subito che l'amministrazione fa 100 lettere al giorno, e di cui 50 di queste lettere, se non 60, sono lettere interne di trasmissione degli uffici. Perché quando lei chiede l'autorizzazione per fare il mercatino estivo sulla spiaggia, deve andare dai vigili all'intendenza di finanza, all'ufficio del commercio, e qui tutta una serie di amministrazioni che si parlano fra di loro e creano il procedimento. Procedimento che è diventato molto faticoso, no? Ecco, per questo alle volte la burocrazia è lenta e lunga, perché è composta da troppe carte e troppi passaggi. Che effetto le fa sentire il presidente della regione siciliana e il dottor D'Urso, qui direttore generale del Dipartimento Energia, dire insomma, Musumeci l'80% si grattano la pancia? Mi ha sorpreso il discorso del presidente della regione Sicilia, perché se un presidente di regione ritiene che l'80% dei suoi dipendenti non lavori, e deve attivare immediatamente i procedimenti disciplinari e ma cosa può fare? Ci ha detto D'Urso che è un po' impossibile. No, perché esistono delle procedure anche per il licenziamento, le sanzioni, le sospensioni. Ora capiamoci, il pubblico impiego per anni, ma tanti anni fa, era anche una forma di reddito di cittadinanza, sì. Cioè, che cosa accade? Che lo Stato povero, no? Ha bisogno di dare comunque un sussidio ai cittadini, e lo dava sotto forma di assunzioni. Questo lo fecero i Sabaudi quando arrivarono a Roma. Quando arrivò la capitale a Roma nel 1871. E per quello lei ci ha già spiegato che ci sono tanti statali a Roma. Certo, ci sono i ministeri, ma fu anche una sorta di risarcimento, possiamo dire. Bravissimo. Proprio così, cioè quando arrivarono i Sabaudi, mal visti dai romani, in questa città povera, disorganizzata all'epoca, Roma all'epoca aveva 200.000 abitanti, non era la città più grande d'Italia, nel 1871, e i poveri romani, per essere risarciti di questa invasione sabauda, vennero assunti nella pubblica amministrazione, però attento, vennero assunti in sovrannumero, cioè gli uffici erano già completi di dipendenti che vennero da Torino e da Firenze, le due capitali precedenti, e poi i romani vennero messi in più. Così. Ecco, per dargli un reddito di cittadinanza, si direbbe. Il reddito di cittadinanza. Salvatore D'Urso è d'accordo che sia una sorta di reddito di cittadinanza? Poi, per carità, non dobbiamo generalizzare. Io lo so. Lei non sa metà... quanti mi scriveranno i dipendenti pubblici arrabbiati, D'Urso. Ma il professore ha ragione. Metà dei nostri colleghi, dei miei colleghi, sono A e B, cioè sono operai e commessi, il che quindi 6.000. In più le partecipate della regione, due o tre, hanno un altro alto numero di dipendenti, per la stragrande maggioranza operai e commessi. Anche in Sicilia, dall'autonomia ad oggi, il pubblico impiego regionale è stato una valvola di sfogo per la disoccupazione dell'isola. Mm-hmm. Sono quasi tutti concentrati a Palermo e il problema è esattamente questo. Quando la pubblica amministrazione sì. si sostituisce allo sviluppo, non rendendosi conto la classe politica che abbiamo in questo momento e che ci governa e che ci ha governato nel passato, che questo non è sviluppo, questo è reddito di cittadinanza, questo è la negazione dello sviluppo. Lo sviluppo vero sono questi stessi denari investiti per creare lavoro. Senta, vero. Dottor D'Urso, le faccio questa domanda per fare un esempio pratico. È vero... Non so se lei ne ha certezza di questo o se ne ha un sospetto, che anche di una vicenda drammatica come quella della vicenda della morte di questa mamma, sì. Viviana, no. Caronia, e col figlio anche ritrovato, forse c'entra il lavoro di alcuni dipendenti pubblici? Ma guardi, questo se lo si analizza è il festival del menefreghismo, è il festival del fatto che non si fa il proprio dovere, non si fa il proprio lavoro. Mm. Forse, purtroppo, non vorrei essere forte nelle cose che dico, ad iniziare dalla stessa famiglia che lascia un essere molto fragile come Viviana, sostanzialmente in balia di se stessi, ma non voglio essere sì, non voglio vabbè. Con questo fare critiche a nessuno, ma se guardate le immagini dell'indagine, c'era più un voler far vedere alle telecamere che si faceva qualche cosa rispetto al fare esattamente le cose. Io mi sono occupato in maniera forte nella mia carriera anche di protezione civile. Non è possibile che un'area che ha 200 metri che è un quadrato di 400 metri, no? Perché dove sono state trovate poi le vittime rispetto all'epicentro che era la macchina, in tutto quel periodo non sia stato battuto palmo a palmo da tutta quella quantità di gente che è stata mobilitata. Ma la cosa più paradossale. Questo cosa c'entrerebbe col fatto che non c'era personale, pur in teoria sulla carta? Certo, perché eravamo in piena estate e chiaramente i vigili del fuoco erano in ferie, il personale della polizia era in ferie. Tutti gli addetti al soccorso erano in ferie, e questo cosa è venuto a mancare, che poi è il fondo del mio ragionamento, è venuto a mancare lo spirito di solidarietà che non può non esserci anche nel funzionamento degli apparati pubblici. Sì, questo... cioè se un comandante dei vigili del fuoco, che sta ora essere sotto inchiesta, non ha la responsabilità di far ritornare all'istante il suo personale in ferie al lavoro per cercare le due persone scomparse, e chiaramente viene meno ai suoi doveri. Se chiaramente, come poi si è verificato, gli addetti non fanno le ricerche che dovevano fare, cioè non si impegnano seriamente mm-hmm. nel proprio lavoro, e evidentemente vengono meno al proprio dovere. C'è un degradarsi in questo momento, che poi è la morale comune, c'è un degradarsi del senso comune. E questo poi si vedrà se ci sono anche le inchieste. Io vorrei chiudere con il professor Alfonso Celotto. A questa domanda che è il titolo, è nato prima l'uomo la carta bollata, lei dà una risposta, un po' come l'uovo e la gallina, insomma. Sì, allora do una risposta scherzosa, ovviamente, dicendo che Adamo ed Eva furono cacciati dal paradiso terrestre perché non avevano il codice fiscale. No? ovviamente è un modo per riderci su, però è anche un modo per capire che, essendo oggi il pubblico impiego una delle strutture fondamentali dello Stato, avendo comunque tante persone che lavorano bene con tanta voglia, abbiamo una grande occasione, mm-hmm. la digitalizzazione, usarla bene, perché sì. se noi usiamo bene il digitale, anche lì, come oggi dal telefonino ciascuno di noi fa quasi tutto, può parlare con la pubblica amministrazione con una app facendo quasi sì. tutto, e quindi lì semplifichi veramente i servizi. Però finché la pubblica amministrazione sarà basata sulle carte, fondata sulle carte, è chiaro che il telelavoro, lo smart working non possono funzionare. Io nel ringraziarvi voglio ricordare che il professor Alfonso Celotto, io ho letto, e lo sa anche lui, vari brani di questo libro Io sono il potere, edito da Feltrinelli, scritto in anonimo da un capo di gabinetto. E Alfonso Celotto è un funzionario dello Stato ed è stato anche capo di gabinetto, quindi secondo me è uno dei sospettati come autore di questo, ma lui nega. Siamo tanti, secondo me quello è un bel libro che racconta delle vicende che guardano tutti noi, ma se fossi stato io avrei firmato. Ah, perché io potevo firmare. Lei poteva firmare, quindi è qualcuno che è in carica, quindi è lui che è anonimo, poteva firmare. Va bene, io ringrazio il professor Alfonso Celotto e grazie a Salvatore Tuccio D'Urso, buona pensione, anche se con questa coda amara, insomma, di un finale di carriera, sicuramente porterà anche un po' di amarezza oltre allo sfogo per aver cercato di dare così una scossa a un ambiente considerato un po' impolverato, diciamo così, per usare un eufemismo. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi avremo ospite il sindaco di Lampedusa, se riusciamo a raggiungerlo, in partenza per Roma, convocato da Conte insieme al presidente della regione siciliana. Ci sono delle novità annunciate da, credo, La Stampa, adesso recupero l'articolo, sì, La Stampa, riguardanti Lampedusa, novità importanti, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Stai attento, Alessandro, perché il messaggio che arriva è che si può sottovalutare, ci vuole sempre un buon senso quando si parla in radio, perché ascoltano tante persone e non si sa come le interpretano. Attenzione, Alessandro, Dico di sottovalutare, si rischia di sottovalutare. No, non sottovalutate. Puoi dire nulla. Ti faccio una domanda. Sì. Meglio un altro anno buttato via a scuola o una vita buttata via? Non ci posso credere. Le faccio rispondere una persona molto più pacata di me su questo tema, Leonardo Madera, eccolo lì. Sei un negazionista, no, sei ecco. Un negazionista. Terrapiattista, tu terrapiattista. Hai detto che il virus non esiste. Non l'ho detto. Negazionista, non è vero. Negazionista. Non l'ho detto. Attenzione. Non l'ho detto. Non si sa chi ti ascolta in radio, puoi dare dei messaggi sbagliati. Non puoi dare messaggi rassicuranti. Fortunatamente c'è Leonardo Manera a dare i messaggi giusti. Prego, Leonardo. No, io l'ho anche scritto stamattina in un mio post su Facebook. No? Cosa ho scritto? Cosa hai scritto? Messaggi sbagliati. Ho scritto che dire che chi solleva ogni tanto qualche dubbio sul Covid è un negazionista è come dire che chi ogni tanto ha un'erezione è un maniaco sessuale. Eccolo, cioè, ecco. Nel senso che È arrivato con un editoriale perfetto, direi, lo mettiamo domani in prima pagina del Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini, abbiamo una metafora, sì, che tutti, sì, capiranno. Questo è un messaggio invece che tutti capiranno, cara ascoltatrice, il messaggio metafora di Manera. Secondo me è un buon editoriale. Comunque io mi sto preparando alla scuola online, anch'io, sì, come dice, sì, il ministro Speranza, mi sto proprio stamattina. Mi sto preparando alla scuola online. Ma tu, sai come? Tu o, sì, sì, o per tuo figlio? No, tu. Io per mio figlio. Ah, io ecco. Per mio figlio. Mi sto preparando prendendo degli psicofarmaci. Quindi comincio già in anticipo a prendere qualche psicofarmaco in modo che, sai, che ci vuole un periodo di tempo prima che la serotonina faccia effetto. Sì. Un mese, diciamo, normalmente. E se poi non quindi parte la didattica un mese online? Prima. Sono già pronto. Sei sono già pronto. Pronto con un livello alto di serotonina. Ecco, va bene. Va. Sono pronto. Va bene. No, io non capisco questa cosa, messaggi sbagliati, ma io dico poi una cosa, scusate, ieri sono passato vicino a casa, i gonfiabili dove vanno i bambini, sapete, sono aperti. Le festicciole sono aperte, i giardini sono aperti, e lì gran massa, sugli scivoli, tutti ammassati, tutti attaccati. Per vostra cognizione, oggi Mattia, mio figlio, inizia gli allenamenti di basket. Allora, lì va tutto bene? Gli cosiddetti assembramenti, anche se non lo sono, cioè, va tutto bene? Tranne che a scuola? Cioè sui gonfiabili si possono attaccare, invece a scuola no? Ma la mia impressione è che si dica, noi le regole formali le diamo, vediamo. Poi vediamo. Se succede qualcosa è colpa vostra. Insomma, è un modo, come dire, io direi prepararsi il culo, per usare un termine. Ma scusa, due bambini che vanno sullo scivolo, non penso che venga sanificato ogni scivolata di un bambino, venga, cioè uno non ha detto che sanifica lo scivolo, no? No, magari visto. C'è anche quella norma che dice che andrebbe sanificato a ogni scivolata. Allora, caro Leonardo Manera, vogliamo salutare il sindaco di Lampedusa perché ci sono novità importanti. Totò Martello, buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, la novità è data dalla stampa e quindi le devo subito chiedere conto. Lei in partenza per Roma andrà con il presidente della regione da Conte, convocato da Conte. Ora, se vuole ci potrà anticipare che cosa ha intenzione di dire, ma prima le chiedo questo. La stampa dice la proposta rendere Lampedusa porto franco, cioè non far pagare alcune tasse, dai, facciamola. Le piace come idea? Io sono preoccupato quando esce questo titolo di porto franco, perché c'erano altri che ci avevano tentato e poi la cosa è finita solo sulle carte e sui giornali e basta. No, il problema vero è che noi intanto parleremo dell'emergenza migranti che c'è a Lampedusa, certo, e di tutte le cose che sono connesse a questa emergenza, perché c'è un po' di speculazione su questo termine di emergenza a Lampedusa, perché tutti rinquadrano a un'emergenza nazionale. Cioè, il problema vero è che noi riceviamo su 18.000, mi pare, su 19.000 persone che sono sbarcate in Italia, 12.000 sono arrivati solo a Lampedusa. Sì. In questo momento quanti ce ne sono, però? Ce ne sono sempre 1.160, perché sono stati fatti due trasferimenti con i pattugliatori, uno della Capitaneria di Porto e uno della Guardia di Finanza. E ora c'è il cattivo tempo. Ieri sera si è chiusa la gara d'appalto per inviare altre due nuove nave quarantena che arriveranno, sì, credo, da stanotte, domani mattina. Però scusi, quindi, sindaco, questo stesso, sì, articolo dice che entro 72 ore, l'Unione Europea è già stata contattata per i ricollocamenti, dovrebbero essere tolti dall'isola queste persone. Lei ci crede? Allora, quando si danno questi ultimatum, queste date, vengono date praticamente nei palazzi. Bisogna guardare sempre il tempo, perché sì, il tempo significa se c'è maestrale, se c'è libeccio. Perché allora oggi non ci sono gli sbarchi perché c'è maltempo, e quindi la gente non è che, come si dice, è vero che c'è l'idea, la volontà di portarseli entro 72 ore, per carità, infatti la gara d'appalto è stata completata, le navi sono state già, come si dice, allettate per venire a Lampedusa, ma dipende che vento, perché se ci sono 28 nodi di vento di maestrale, sì, e l'operazione di carico e scarico non si può fare. Ma lei, non ho capito, gradirebbe la questione del porto franco? Immagino di sì, per i suoi cittadini, di una dilazione delle tasse o non pagare le tasse. Assolutamente sì, però il problema è che noi abbiamo, come si dice, delle cose passate, degli impegni e delle promesse fatte che riguardano il passato. Per esempio mi riferisco al 2011, il governo Berlusconi ha fatto la sospensione delle tasse sull'isola di Lampedusa, sì, e che ogni anno c'è stata la proroga fino al 2017. Dal 2017 in poi c'è stato il silenzio. Però non sono arrivate praticamente dall'ufficio le cartelle esattoriali e non abbiamo potuto utilizzare la legge che ha fatto il governo italiano sulla rottamazione delle tasse. Aspettiamo, quindi non l'abbiamo potuto, non ci sono le modalità di rientro, e quindi c'è gente che se domani mattina gli arriva praticamente la cartella esattoriale, deve pagare, non arriverà. Io credo che, insomma, se lei va dal premier convocato, qualcosa proporrà lo Stato, no? Nei confronti assolutamente di... assolutamente sì, però ripeto, ci sono delle cose strutturali. Lei consideri che dal 93 ad oggi nel Mar Mediterraneo sono state buttate e sono state affondate centinaia e centinaia di imbarcazioni. I danni che hanno avuto praticamente i pescatori di Lampedusa dal 2013, sì, ad oggi, e li hanno pagati solo ed esclusivamente praticamente i marinai. Ma poi tutta una cosa è una conseguenza, no? Come per esempio quando escono notizie sbagliate e non esatte su Lampedusa, i turisti che dovrebbero arrivare non arrivano. Ma è tutto un problema di collegamento, al problema di... Cioè, sembra che uno scende dalla Luna per chiedere queste cose, però certe volte per vivere... Allora, noi abbiamo un tappeto di imbarcazione al Molo Favaloro che è un pericolo per coloro i quali stanno all'interno del porto che ormeggiano le imbarcazioni. Quando c'è il libesso, praticamente queste imbarcazioni affondano, camminano da sole, staccano le imbarcazioni dei pescatori, sì, rovinando anche le banchine e rendendo il porto praticamente impraticabile. Siccome l'ufficio delle dogane ci ha promesso che li deve togliere, io stamattina sto andando a fare un'ordinanza per rimuoverli direttamente io. Sì. Ma non è che si possono tenere imbarcate 300 imbarcazioni all'interno di un porto che sembra un tappeto di barche, sì, che è tutto il porto riempito. No, no, ma io è chiaro, è un'isola meravigliosa, ma ha questa, come dire, collocazione geografica. Ma io ne racconto solo l'ultima, sì, per capire per quale motivo ogni cosa che c'è a Lampedusa è una cosa estrema. Viene sequestrato un peschereccio praticamente tunisino, viene portato all'interno del porto di Lampedusa e viene sequestrato con il pesce a bordo. Spengono i motori e questo pesce si lascia praticamente marcire all'interno, dove la gente che arriva con le navi, ma quelli che andiamo lì anche per passeggiare, dobbiamo sentire questa puzza che è veramente odiosa. E scrivo mille volte per dire: scusate un attimo, ma lo potete spostare? Perché l'avete sequestrato con il pesce all'interno e poi l'avete fatto marcire? No, ma noi sindaco, intanto in bocca al lupo, certo, che Leonardo qui. Gli abitanti di Lampedusa come vivono tutta questa situazione? Ma come vivono? Allora, intanto in questo periodo di Covid, dopo una campagna mediatica contro diciamo i migranti che erano tutti contagiati, basta che ne esce uno dall'hotspot e qui succede il Viva Maria, nel senso che c'è un allarme generale. Telefoniamo per recuperare quelli che escono e i carabinieri tutti i giorni in giro praticamente per l'isola di Lampedusa a raccogliere i migranti, perché gli arrivano centinaia e centinaia di telefonate. Ora, si fa molte volte, è facile dire, vabbè, accogliamo tutti, ma se tu accogli e non ci sono le condizioni di sicurezza e anche dal punto di vista di sicurezza sanitaria, allora c'è un meccanismo che non funziona. Sì. Se io ne posso contenere 200 e invece ce ne ho 1500, ma ce ne ho 1500 neanche il tempo di svuotarlo e si riempie di nuovo. D'altra parte, sindaco, si dice fermiamo in questo momento gli sbarchi, ma se uno parte anche poi quando arriva che si fa? Mica lo si può affondare. Ma io quelli che dicono che vogliono fermare le partenze, vorrei capirlo qual è la come. Come? Perché molte volte si parla, infatti io chiedevo poco fa in un'altra trasmissione, secondo me noi dovremmo spiegare a noi stessi e agli italiani che quando si usano una certa terminologia sul problema, su quello che avviene a mare, di spiegarle che cos'è il mare e come si deve comportare quando uno è a mare. Sì, meglio, se io metto una nave e dico tu non la devi fare passare, e questa nave praticamente è lì che controlla, io non passo perché giustamente il barchino è più piccolo dell'imbarcazione militare. Sì. E se io di fronte a questa nave militare vado a fondo, qual è l'ordine che dà lo Stato alla nave? Quella di farli affondare, di farli morire o di sparare praticamente su coloro i quali hanno bisogno di aiuto? Ma guardi, lei sindaco dice giustamente che è quello che diciamo qui da sempre, che ha un problema complesso, non ci possono essere delle soluzioni semplici, perché dire fermate gli sbarchi o fermate le partenze, che vuol dire? Certo, noto e faccio notare agli ascoltatori che Di Maio, ministro degli esteri, è andato in Libia a promettere di costruire la famosa autostrada che già dai tempi Gheddafi, Berlusconi. Ecco, leggete dietro queste promesse anche economiche di scambio con la Libia magari il dire noi vi diamo questo e voi cercate di controllare le coste. È da 40 anni con la Libia che facciamo così, non è servito a niente, continuiamo, ma forse non ci sono altre strade, voglio dire, non è che possiamo dichiarare guerra alla Libia. Ringraziamo Totò Martello, sindaco di Lampedusa. Andiamo un attimo al traffico. Manera, annata nuova, ma abitudini vecchie. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno Alessandro Milan. Dopo il tuo elenco delle cose che dovrebbero farci realmente paura, oltre al virus, vorrei appoggiare le mie labbra sulle tue natiche, pur non essendo io omosessuale. Ti stimo parecchio in questo momento. Dopo magari cambia, però adesso ti stimo. Milano durante le vacanze è preso troppo sole. La scuola è un'istituzione pubblica. Se tu vuoi mettere i gonfiabili in casa tua e invitare 25 bambini, lo fai a tuo rischio e pericolo. L'istituzione pubblica deve rispondere al pubblico, allo Stato, e quindi deve avere delle cautele. Milano. Il privato può anche non avere. Mi capito, Milano. Scusa Milano, lasciati dire questa cosa, Milano. Ma hai sentito che bella voce aveva la signorina che leggeva le informazioni al traffico? Voce bellissima, molto, molto calda, accattivante, direi. Accattivante. Volevo solo fare i complimenti. Ricordi quello che c'era l'anno scorso, le ultime puntate dell'anno scorso, che era quel signore con la voce molto impostata da attore. Sì. Esatto, brava, sì. Il clown Ronello. Invece questa ragazza ha una voce molto suadente. Complimenti, guarda. Oggi il traffico lo manderai 7-8 volte, va, se bene. È possibile. Leonardo, dobbiamo fare un appello. Così mi ha detto la mia amica Saretta. Fai un appello. Fai un appello, lo facciamo prima di darti il microfono. Allora, perché la vera storia che oggi c'è sulla stampa è di questi due terrapiattisti che sono partiti da Venezia in tempo di lockdown, la vicenda è emersa oggi, perché volevano andare appunto a Lampedusa, che per loro è la Finisterre, cioè volevano andare a controllare. Non ce l'hanno fatta, sono arrivati stremati, assetati a Ustica, col sindaco che li ha accolti dicendo ma da dove spuntate voi? Poi presi a Ustica hanno iniziato a urlare a tutti liberatevi dei telefoni! State lontani, i telefoni sono il demonio, le onde elettromagnetiche. Poi hanno tentato due volte di fuggire da Ustica, ma non riuscivano perché c'era il mare contro, e quindi la capitaneria diceva sì sì, due miglia fanno, e poi sono andati a recuperarli. Io vorrei conoscerli questi due terrapiattisti veneziani. Che ha fatto? Tu non vorresti? Cosa fai? Che c'è? Ma no! Avete la faccia così? Come il culo. No, no! Lampino, no. Ha fatto partire! Ma perché? Ma riferito ma a chi? Ma mai mandare cose a casa. A non me è più, a te, le manda forse. A me e a te, no. Tu non vorresti conoscere questi terrapiattisti che hanno fatto questo. Non sapevo che per i terrapiattisti invece Lampedusa fosse il Finisterre, questa è una novità per me. Non so, sono partiti lì, forse avranno detto lì ci sarà la fine, sai che c'è il bordo e... Comunque, io vorrei se sono all'ascolto mai della radio, questi due terrapiattisti veneziani, e scrivono a 100milan@radio24.it, noi siamo ben lieti di sentire il resoconto del loro viaggio, come Giulio Verne praticamente, moderni. Vabbè. Leo. Allora, in questo periodo si parla sempre di coronavirus, un argomento che inevitabilmente genera ansia. Ma l'ansia è forse la caratteristica più identificativa dei nostri tempi e diffusa in tutti noi. Per molti arriva fin dal mattino al risveglio, quando il datore di lavoro, il capo, ti fa trovare sul telefono gli obiettivi della giornata, i clienti, il benchmark, il fatturato. E tutto il giorno sei concentrato su quegli obiettivi, quando probabilmente gli obiettivi per vivere bene dovrebbero essere altri, per esempio incontrare la persona giusta, costruire una famiglia e poi trovare un amante. Invece no, siamo concentrati sugli obiettivi di fatturato, sugli obiettivi del lavoro, che non sarebbe neanche un problema se non creasse ansia, il male più diffuso dell'uomo moderno in tutti i continenti. Qualche anno fa il New York Times ha definito l'America come The United States of Xanax. Ma l'ansia è diversa dalla paura. Faccio un esempio. Se accompagnando mio figlio a scuola esce di colpo un cane grosso per strada che abbaia, io provo paura. Se invece accompagnando mio figlio a scuola penso a come potrebbe essere l'anno scolastico, inevitabilmente provo ansia. Perciò la paura è un sentimento per un pericolo reale e immediato che poi cessa. L'ansia invece ha sintomi più leggeri, sfumati, ma può durare per sempre. L'ansia è per sempre, come un diamante. E considerando quello che paghi lo psicologo, costa anche di più. Ma mentre la paura la condividiamo anche con molti altri animali, invece l'ansia è un sintomo tipico del genere umano, perché noi uomini siamo gli unici che possediamo la dimensione, l'idea del futuro, del tempo, che gli altri animali non hanno. Noi possiamo pensare al futuro e pensare al futuro può mettere ansia. Quindi l'ansia è tipica del genere umano e in qualche modo si può anche ereditare. Se hai una madre molto ansiosa è probabile che anche tu diventi ansioso prima o poi. Mia madre, per esempio, era molto ansiosa. Per mia madre ogni caso poteva essere solo il peggiore dei casi. Per mia madre il motto, la frase simbolica poteva essere attento, che se vivi poi muori. E in fondo tutta la nostra vita di uomini moderni è una lotta contro l'ansia. Crea ansia per esempio il Natale. Da bambini arriva Natale e ci chiediamo se Babbo Natale troverà il tempo per portare i regali anche a noi. Ma io immagino anche l'ansia di Babbo Natale che si chiede se riuscirà a portare i regali a tutti. Secondo me Babbo Natale ha un'ansia bestiale e si fa vedere solo a Natale perché tutto il resto dell'anno è fisso dallo psicologo. Crea ansia il primo bacio. Arriva il momento del primo bacio che per avere la bocca pulita fai tutto il giorno i gargarismi con la candeggina e alla fine la donna più che il fidanzato è convinta di baciare Mastro Lindo. Le pubblicità, tipo quella del dentifricio che dice se quando ti lavi i denti perdi un po' di sangue può essere gravissimo, minimo hai la piorrea. Tuo figlio crea ansia che usa il computer e tu genitore prima non hai cancellato la cronologia. Ansia i messaggi su WhatsApp, scrivi a una che ti piace e vedi che lei sta scrivendo, poi arriva il messaggio, c'è scritto solo ciao, per me sei solo un amico e passi direttamente dall'ansia alla depressione. E soprattutto la salute, come per il coronavirus, ma anche prenotare una visita in ospedale che magari te la fissano dopo 6 mesi e in quei 6 mesi, anche se non hai niente, ti ammali per l'ansia di sapere come andrà la visita. Ma secondo un'inchiesta di un sito di psicologia, psiche.org, le due cose che in assoluto creano più ansia di tutte sono al secondo posto la solitudine e al primo posto stare con gli altri. Quindi comunque la giri, comunque la metti, per tutta la vita siamo destinati inevitabilmente a provare ansia, tanto che il pensiero della morte, che dovrebbe essere la fonte principale di ansia, diventa per alcuni finalmente liberatorio. Oh, finalmente un messaggio positivo, un messaggio concreto, non di chi vuole eludere il problema come Milano. Senti Milano, guarda che i gonfiabili sono una cosa privata, cioè, hai capito? Che cosa c'entra poi, come dire, il privato non rispetta le regole, invece solo il pubblico lo deve rispettare. Poi i bambini sono gli stessi, quelli che vanno al gonfiabile a scuola sono gli stessi. Cioè non è che... Ma poi le regole c'erano anche, ci sono anche sui comportamenti privati, per esempio quando si diceva che non si poteva andare a correre a più di 200 metri da casa, non è una cosa pubblica. Però questo è un tema interessante, una bella sfida Lucchetti. Lo scivolo va sanificato a ogni scivolata? L'altalena va sanificata a ogni altalenata? Che va bene, uno non sta sull'altalena 5 minuti, ma lo scivolo dura 2 secondi. Allora, c'è un addetto allo scivolo per ogni parco di ogni città italiana? Non credo. Io credo che dovrebbe competere ai genitori sanificare prima i pantaloni del figlio sul fondo schiena, così tu vai sullo scivolo già sanificato. Io lo vedo così. Ti sanifichi prima e poi puoi scivolare poi quanto vuoi. Certo, sì. Diamo un po' di responsabilità anche ai genitori in questa nostra Italia così deresponsabilizzata. Esatto, cari genitori, assumetevi questa responsabilità. Comunque avevo detto una sfida Lucchetti, non una sfida Manera. Sei veramente esondante. Va bene, dai. Leonardo, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 è tra poco, dopo il giornale radio. Parleremo di questa modella armena. Hai sentito di questa modella armena? Ho oggi sentito, intervistata sì. Da Repubblica, peraltro. Tu la giudichi, dai, facciamo una bella o non bella, tanto sapete tutti, se ne parla, no? Tantissimo. Ma no, io personalmente no, però evidentemente è funzionale alle sfilate, immagino, no? Sì, ma in realtà poi cercheremo di capire con Giulia Crivelli. Certo, quando si dice una bellezza particolare, sì, dei lineamenti particolari. La cosa che ha fatto stupore è il cosiddetto body shaming, cioè è stata presa di mira, sì, per il volto in maniera volgare. Ma ne parleremo tra poco, vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Signori, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, sono le 10 e 7 minuti e c'è anche Leonardo Manera. Io non lo vedo, ma c'è nell'aereo etereo. Momento. Aspetta. Ho comprato un ferro da stiro nuovo perché non mi funzionavano più i miei. Sto provando a vedere. Ah, c'è il getto di vapore. Senti il getto di vapore del ferro da stiro. Sto provando qui un attimo per vedere se dà soddisfazione. Sì, ma cosa fai? Getti bellissimo il vapore così nell'aria o lo stai provando su una camicia? No, lo sto provando su un tovagliolo perché è la prima volta che si compra un ferro da stiro, è il primo utilizzo. Ma utilizza, a parte che la app adesso, aspetta, utilizza i tovaglioli di carta. Vedi, il ferro da stiro subito ti ha fatto saltare. Senti, senti, ma che bel getto. No, adesso dovrebbe andare bene, mi sentite bene? Sì, sì, che bel getto che ha. Sì, è un bel getto. Perché l'hai comprato per il getto? È la cosa che mi dà più soddisfazione quando stiro il getto di vapore. Proprio dall'idea perché di essere... Perché tu stiri? E ho dovuto un po' imparare, sì, era l'unica cosa che non facevo in casa, ma adesso ho dovuto imparare a fare anche quella. Senti, invece, poi dopo finiamo questa cosa da Sandra del Mondo. La caldaia, come va? La caldaia, che c'era il Cristiano, ricordo, che si chiamava il riparatore di caldaie. La caldaia non ha più dato problemi, quindi il signor Cristiano ha fatto un ottimo lavoro per il momento. Sì, qualora dovessero ripresentarsi delle criticità, chiederò che torni lui, signor poi Cristiano. Poi giuro, basta, giuro. Il frigorifero, vuoto, pieno, zucchine, carote. Ho fatto la spesa ieri, sì? E quindi è un bel frigorifero ben fornito. Quindi sono a posto in tutto. È inutile che lo apri, non si vede in radio. Inutile che ci no, l'ho aperto, però è tutto ben è rifornito. Posso mangiare per 3-4 giorni senza problemi. Va bene, quindi, signori, abbiamo concluso questo Casa Manera del signor Bonetti. Sentirei Luca da Vicenza. Buongiorno, Luca. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che ci dice? Il mio è più un intervento che pone un quesito che mi assilla quotidianamente. Prima si parlava di virus, no? Questo benedetto coronavirus. Dico io, ma chi è che ha tutto questo interesse per farlo risultare, è innegabile che c'è, ma farlo risultare così più aggressivo di quello che realmente si sta dimostrando ad essere? Ma può Luca, essere mai possibile che possano la lobby delle case farmaceutiche a tenere in scacco 7 miliardi di persone nel mondo? No, cioè, no, no, ecco, no, perché se no Luca, no, rimanga con noi. Nel dire quello che dico io, cioè che non capisco come l'80% degli italiani abbiano paura, perché in realtà hanno paura del virus, poi non hanno paura dello smog, non hanno paura del colesterolo, non hanno paura dei comportamenti sbagliati, del fumo, del bere, dell'andare in macchina a 180 all'ora, eccetera. Non voglio con questo dire che ci sia un complotto planetario, per carità, cioè il virus c'è. Ma io personalmente sto semplicemente non sospetto che ci sia nessun tipo di complotto. Come mi suggerisce peraltro Giulia Crivelli, che è qui a fianco, non si guadagna coi vaccini, anzi le case farmaceutiche guadagnerebbero molto di più a tenerci tutti malati e a darci i farmaci. Lei sospetta un complotto planetario? Glielo chiedo, Luca, ma non è una domanda polemica. Io personalmente trovo che sia reso più grave o soprastimato il danno che sta creando questo virus. Sì, ma io credo che non ci sia un complotto dietro. Quando il professor Cardini, storico, ci ha spiegato una volta che esistono le epidemie dal punto di vista clinico e poi anche le epidemie dal punto di vista psicologico, Cioè è un aspetto non trascurabile, cioè se si insinua non il virus ma la paura e l'ansia, quella è più difficile nel tempo da farci scivolare via di dosso. Cioè c'è una durata clinica dell'epidemia, e non è finita chiaramente, e poi c'è una durata psicologica sugli effetti della popolazione che è molto molto più lunga. Semplicemente questo, sì, io credo questo. Io credo anche che sia un meccanismo che si è anche un po' autoalimentato. Nel sì, senso che dai mezzi di informazione, dillo, lo so Leonardo, sì, che ce l'hai con i giornalisti, ma hai ragione, io un po' su questo ti vengo dietro. Cioè io per esempio, faccio solo questo esempio, se tutti i giorni i mass media dovessero parlare dei danni che fanno magari certi alimenti in prospettiva di malattie di altro tipo, tutti noi magari staremmo più attenti, certo, a non mangiare quegli alimenti, e quindi è un meccanismo che anche attraverso, certo, i mass media si alimenta e poi magari produce situazioni di questo tipo. Cioè, io senza, sono sicuro. Senza pensare al complotto, neanch'io penso al complotto, penso a un meccanismo che anche attraverso i media si è un po' autoalimentato. Un po' psicologico. Visto che l'ho salutata, Giulia Crivelli, ciao! Ciao. Dai, tra poco parleremo di altro, però... No, insomma, posso dire una cosa? Crivelli che ha detto Leonardo, io ho pensato spesso nei giorni in cui vedevamo quelle immagini tremende delle terapie intensive con le persone magari nemmeno completamente vestite, a pancia in giù. Pensate se tutti i giorni ci mostrassero tutte le persone che sono in fase terminale per un qualsiasi certo, tipo di cancro, in che condizioni sono ricoverate e avessimo questo martellamento tutte le sere di queste immagini. O pensa, non so, gli incidenti stradali, se facessero vedere, esatto, le immagini di come sono, a volte ci sono, c'è stata tutta la campagna per esempio sui pacchetti di sigarette, quel dibattito di far vedere proprio le conseguenze. Cioè se c'è un martellamento psicologico, fatemi usare la parola martellamento in senso positivo, cioè non che si inventino le cose, alla fine un condizionamento c'è. Assolutamente, anche soltanto i numeri, no? E questo l'hanno detto in tanti, i numeri di morti per tante altre patologie. La grande differenza naturalmente è che questa è una patologia che si trasmette tramite un virus, quindi non è come il cancro, che non è pericoloso in quel senso. Dopodiché... lo ripetiamo mille volte, non stiamo negando nulla. Manera ogni tanto fa il negativo. Scherzo. Assolutamente no. Nessuno. Io nego anche l'esistenza di me stesso, se è per quello. Manera si sveglia al mattino, si guarda allo specchio. Esisto, non esisto. Ma. È come gli struzzi che non riconoscono ogni giorno il proprio padrone. Si guarda allo specchio, certo, e dice: chi è questo qui che si aggira per casa mia? Vabbè. Pino da Torino. Pino, buongiorno. Buongiorno. Sì. Prego. Pino, è in diretta, se vuole dire qualcosa, se vuole rispondere anche al telefono. Voleva farci sentire il suono del suo telefono, Pino. Non lo so. Pino, ci sente o è in diretta su Radio 24? Se desidera può dire qualcosa. Ma stavo un attimino ascoltando voi riguardo a queste preoccupazioni che abbiamo tutti noi italiani. Sì. Sarebbe opportuno che ci fosse un po' più di trasparenza e un'informazione diretta comune, perché si stanno dicendo tante di quelle cose e soprattutto tanti professionisti non si interfacciano e dicono la stessa cosa. Io ho fiducia sempre nella scienza e soprattutto nelle persone che rappresentano questa figura professionale. Il problema è che quando due persone hanno fatto un percorso per studiare una determinata cosa e questo va a scontrarsi contro la realtà dei fatti, io che sono ignorante, come tanti della mia popolazione italiana, sì, del fatto, dico, cosa devo fare? Sì, lei dice quando ci sono indicazioni anche contrapposte da parte di chi dovrebbe dare delle indicazioni precise, si occupa in materia, è un po' anche questa incertezza che ha creato un po' le tensioni, le ansie. Pino ha ragione anche in questo. Noi però ora, dopo il traffico, cambieremo argomento. Lo vogliamo introdurre. Se vi dico il nome di Armin Arutyunyan, magari non vi dice tantissimo. Se però voi immaginate quella modella armena il cui volto è stato mostrato in questi giorni su migliaia di profili social, è stato anche attaccato, insultato il volto per insultare lei, si chiama body shaming, no? Perché? Perché Giulia Crivelli è un viso, come dire, prima ne parlavo anche con Leonardo, si può esprimere anche un giudizio estetico. A Leonardo Manera dice non è una ragazza che mi colpisce per bellezza, così anche me, ma chi se ne frega, si potrebbe dire, anzi lei lo dice oggi a Repubblica, dice chi se ne frega, quando vedo lo specchio vedo una ragazza che ha tanti interessi, ha tanti sogni, non mi fermo al volto, però... Guarda, io ti dico solo una cosa che probabilmente c'entra il fatto che pensiamo ancora che insomma la moda, soprattutto quando riguarda le donne, debba avere come protagoniste delle donne bellissime, e di donne bellissime in passerella ovviamente ce ne sono tantissime, anche penso, di uomini, anche di uomini, ma qui volevo appunto dirti una cosa, come Gisele Bündchen, pensate alle ragazze di Victoria's Secret, tutte stupende. E a parte che anche Gisele Bündchen è stata vittima di body shaming all'inizio della sua carriera, perché le dicevano che aveva un naso troppo grosso e lei se n'è fregata, quindi è sempre tutto relativo. Però io non seguo le sfilate insomma da tanto tempo, ti assicuro che le sfilate maschili sono piene di mostri, secondo sempre un'estetica più o meno accettata. Mostri. Sì, di mostri. O uomini magrissimi o dall'aspetto veramente, diciamolo, unconventional. Io non ho mai sentito fare body shaming contro questo uomo. E questo è il primo tema, certo. Mi dispiace. Questo sicuramente, no, sicuramente il fatto che sia una donna è stata accusata tantissimo. Ma dopo il traffico ne parliamo, ci aggiungerà anche Patrizia Benigliani. Insomma, siamo qui a discutere di questo tema. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora facciamo una cosa, perché non facciamo le lezioni di scuola sui gonfiabili? Sarebbe perfetto, i bambini si divertono e non abbiamo problemi col Covid. Ciao a tutti. Vabbè. Allora, Leonardo Manera insieme a Giulia Crivelli, che da anni si occupa del tema moda e non solo sul Sole 24 Ore, quindi qualcosa ci può dire su questa vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, perché certo non ha gradito questo tipo di attenzione Armin Arutyunyan. Perché se ne parla? Tanto mi dicevi se ne parla solo in Italia. Sì, questo è veramente. Questa ragazza ha sfilato per Gucci indossando gli abiti della collezione primavera-estate 2020, quella che di fatto non è stata venduta a causa lockdown, e però la sfilata si è tenuta nel settembre 2019, proprio qui a Milano. Quindi questo è l'unico stretto legame con Gucci. Sì, c'è stata anche questa vicenda italiana per cui una fake news, cioè una foto che tagliata in un certo modo, sì, sembrava che lei facesse il saluto romano a Roma di recente, invece una roba assolutamente falsa. Essendo il nostro paese con Milano, Roma, ma anche Firenze, la capitale, perché di fatto è questo, la capitale mondiale della moda, lei spesso si trova per lavoro in Italia. Era a Roma, le hanno fatto visitare o le hanno detto di andare anche a vedere il Vittoriano, lei è andata, si è scattata una foto, la potete vedere sul suo profilo Instagram, sì, che è Dear Armin con la E finale, e appunto poi è stata open, tra l'altro ha fatto un lavoro nella loro rubrica di banking, e hanno fatto proprio vedere come comunque la foto sia stata modificata, proprio non è soltanto postarla, sì, in un certo modo, ma modificarla. Comunque il tema è anche questo. A me piacerebbe sapere chi sono quei fenomeni che si prendono la briga di andare a fare body shaming o comunque di andare a commentare su questi fatti, insomma. Ma sai, Leonardo, per me è inconcepibile. Io non sono una modella, sono tutt'altro che una modella, e credo che tutti noi dall'asilo in poi in qualche modo il body shaming l'abbiamo subito, e tra l'altro questa è una cosa che a me è ancora più incomprensibile, cioè io soprattutto quando sento degli uomini o oggettivamente brutti o mostruosi o semplicemente che non assomigliano a Brad Pitt permettersi di giudicare l'aspetto fisico delle donne, a me viene sempre voglia di rispondere: scusi, ma lei è Brad Pitt, lei è il sosia di Brad Pitt e non ce ne siamo accorti. Ma guarda, perché lo scrive proprio oggi Michele Serra nella sua macchia di Repubblica: deridere il nemico di cortile di scuola sulla base del suo aspetto fisico, quattro occhi, nasone, sì, palla di lardo, faccia da pirla, è stato il tributo quotidiano che quasi ognuno di noi ha versato nel calderone infinito delle offese inferte subite. Qualcuno ci è rimasto male per il resto della vita, molti hanno imparato a difendersi. Ora però quei materiali verbali da branco escono dai cortili scuole e lievitano nel infinito cielo dei social. Esatto. Cioè, ci sono anche i social che non aiutano. E qui volevo dire una cosa, perché ci sono cascata un po' anch'io in questa trappola, cioè sempre sui social vedevo tantissimi commenti che dicevano: ma smettetela, ci stanno tutti prendendo in giro, è solo una trovata di marketing. Che Gucci abbia una strategia di comunicazione eccezionale, questo è vero da sempre, e in particolare da 6 anni, mm-hmm, da quando c'è il direttore, lo stilista Alessandro Michele. Però vi ricordo, visto che è una vicenda tutta italiana, sono andata a rivedermi i dati. Nel primo semestre Gucci, che appartiene al secondo gruppo del mondo del lusso Kering, ha avuto ricavi per 3,07 miliardi, meno del 20% sono in Italia, e tra l'altro di tutto quello che vende in Italia Gucci vendeva agli stranieri, quindi probabilmente in questi 2 trimestri, mm-hmm, è andata ancora, quindi non si può guarda essere al mondo, no, scusa, Gucci guarda al mondo, non credo non veramente che non sia per spingere chi frequenta i social e si vede incuriosito da Gucci, per spingerlo, non è una strategia di marketing, ecco. Io però voglio salutare, ci sta ascoltando, la saluto con piacere, Patrizia Mirigliani, ben trovata Patrizia. Buongiorno. Miss Italia, insomma, anche lì Miss Italia si è parlato tantissimo in tanti anni di canoni di bellezza, ci sono, sì, state le polemiche, ogni tanto tornano. E, ecco, intanto cosa ne pensa del body shaming, questo brutto vezzo di prendere di mira le persone per le loro fattezze fisiche, di fatto? Ma penso che sia assolutamente inconcepibile. Noi siamo stati spesso vittime anche di questo, con le nostre curvi che sembravano inadatte, con Chiara Bordi che era la protesi, mentre noi volevamo aprire alla bellezza dei confini. C'è un mondo di conservatori, di tradizionalisti, di gente che ha una visione così ristretta della bellezza che si permette di giudicare la qualunque. Allora io voglio dire una cosa, questa ragazza per me è in realtà una ragazza con una grande personalità e una bellezza molto particolare. Io penso che la bellezza possa essere l'arte di saper indossare il proprio essere anche imperfetto, in questo caso lei lo racconta, quindi attaccarsi, accanirsi contro questa che può essere anche, per carità, sotto certi aspetti una operazione commerciale di Gucci per far parlare del brand, ma io non la vedo, potrebbe esserlo, ma non la vedo proprio così. Penso che i criteri di bellezza negli anni stiano cambiando e che ci dobbiamo abituare a dei criteri di bellezza molto diversi, ma è difficile per gli italiani, sentivo che dicevate che soprattutto l'Italia è stata criticata, per gli italiani è molto difficile accettare il cambiamento, perché questa donna nel suo modo di essere è di una grande modernità. Sì, oggi nell'intervista Repubblica dice: vedo una persona quando mi guardo allo specchio che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire, da fare, esatto, e che non ha tempo per chi la vuole abbattere. Io, esatto, spero davvero che sia così, perché io mi pongo un attimo nella sua posizione di essere da migliaia e migliaia di persone attaccata brutalmente. Ci vuole una grande forza d'animo a rispondere, sì, così, e spero che sia quello che, sì, prova dentro, perché se è così io vedo una grande personalità in questa ragazza, sicuramente è una bellezza particolare. Se noi pensiamo alle icone usate dalla moda, dai brand negli anni 90, la Schiffer, Naomi Campbell, l'Evangelista, sono decisamente cambiati oggi i canoni della proposta della bellezza, ma poi a differenza di Miss Italia, dove la bellezza viene proposta per se stessa, diciamo che la moda, non voglio usare il termine USA, però propone delle testimonial che rappresentano il passaggio dei tempi, come negli anni 90 erano quelle le icone. Oggi le icone fanno discutere, sono donne di carattere, sono donne imperfette, ma sono anche modelli accessibili per chi vuole ad esempio entrare nel mondo Gucci in questo caso e farne parte. Vorrei chiedere per Giulia Crivelli, ma sulla magrezza vogliamo fare, cioè io non l'ho vista fisicamente. Io no, non è magrissima, diciamo, per gli anzi direi che è quasi in carne per gli standard delle modelle, perché ricordiamo una volta era sfuggito persino ad Armani Le modelle devono mettere in evidenza il vestito, non dovrebbero essere loro in una campagna pubblicitaria diversa, ma su una passerella, e lo ricordo ancora una volta, Armin ha sfilato per Gucci, non è la protagonista di una campagna pubblicitaria, e sulla passerella dovrebbero essere, insomma, quasi invisibili. Però sul tema della magrezza io non credo che sia la moda la responsabile di questi modelli un po' pericolosi di eccessiva magrezza. E però ricordo che comunque il fatto che il 90% delle persone che soffrono di disturbi alimentari, che sono ovviamente legati al rapporto con il corpo, sono donne. In quel 10% di uomini ci sono moltissimi omosessuali. Questo per dire che evidentemente il body shaming, l'essere colpiti o perché si è troppo grassi o perché si è troppo magri, sulle donne ha ancora un impatto devastante. E guarda, non ho difficoltà a dirlo, lo dico anche per esperienza personale. Le cose che mi hanno fatto più male non sono gli insulti magari al mio modo di essere, al mio modo di studiare, al mio modo di, anche qui in radio, le cose che mi fanno più male sono i commenti sull'aspetto fisico. Patrizia Mirigliani diceva a Giulia Crivelli che succede soprattutto ed è innegabile nei confronti delle donne più che degli uomini, purtroppo. Io ho ragazze di una insicurezza incredibile, ragazze molto belle, oggettivamente molto belle, con una bella personalità, con una bella grinta, che ancora però si sentono ghettizzate. Addirittura Miss Italia, le nostre miss subiscono la ghettizzazione, al contrario. L'essere bella a volte è una vera, fa subire una sorta di ghettizzazione nelle scuole. Cioè, una ragazza molto bella viene derisa dai compagni perché tanto cosa studi a fare, tanto tu andrai avanti ugualmente. Quindi diventa un handicap la bellezza, mentre piuttosto che un valore aggiunto come dovrebbe essere. Questa Forse è una cosa tutti che questi hanno... atteggiamenti, questi commenti arrivano da una forma di frustrazione anche in qualche modo. Esatto, ma sicuramente, ma tutti i commenti che fanno sui social secondo me derivano da grandi forme di frustrazione. Ma queste ragazze, che sono ragazze in gamba, che sono molto belle e che sono molto intelligenti, devono essere appunto derise o prese perché tanto tu dove vai, tanto tu... Allora anche questa cosa dovrebbe finire. Ma io credo che l'Italia sia un popolo di invidiosi in generale, per cui c'è, non finirà facilmente. Piace ah sì, che poi come dice Giulia vorrei proprio vederli quelli che dietro la tastiera, cioè vorrei vederli proprio fisicamente a sto punto, visto che sono loro che pongono la questione sul tavolo, vorrei proprio vederli. E volevo solo tornare un attimo solo a Gucci, perché io sarò anche un'ingenua, però io ci credo a questo sforzo che stanno facendo di dare valore anche a quella che viene chiamata unconventional beauty, cioè fuori dai canoni, che siano quelli delle maggiorate degli anni 50 e 60, della Kate Moss degli anni 80, o non so cosa sia adesso, delle ragazzine in pantaloncini simil tanga. Loro hanno fatto una campagna per i primi rossetti e una delle modelle era una ragazza con la sindrome di Down, che tra l'altro forse per un pudore minimo che ancora esiste non è stata oggetto di body shaming, però per dire che stanno facendo, la moda non può tutto, però sicuramente può anche dare uno stimolo alla... Tra l'altro sottolineo, non so se questo incide, è armena, è la prima, dice sono la prima che vengo dall'Armenia, un paese che ha avuto anche una storia molto travagliata di genocidio, eccetera. Forse c'è anche in questo, non lo so se hanno pensato anche a questo come... Che tra l'altro, se vuoi appunto anche qui magari porto un po' acqua al mio mulino, io credo nella moda come fattore di cambiamento e di comunicazione, perché può appunto può far parlare di certe cose. Sicuramente della storia degli armeni e del genocidio degli armeni parliamo troppo poco. Che poi serva la presenza di Armin, non lo so, però... Anche nella pubblicità mi sembra che si stia dando spazio a tipi di bellezza diverse da quelle tradizionali, cioè si vedono persone anche normali in pubblicità che prima era più difficile vedere. Sì, ma perché dovremmo avvicinarci anche a un concetto di normalità? Che fa, è una parola che fa paura alla gente, però la naturalezza, la normalità sono anche dei pregi. Invece si pensa sempre alla bellezza come qualcosa di assolutamente perfetto, dove abbiamo dimostrato sempre negli anni che non esiste la perfezione in assoluto nella bellezza. ma ha tante caratteristiche. Quindi la gente deve abituarsi che la bellezza sta in tante cose, bisogna saperla riconoscere. È assolutamente così, noi ci dobbiamo fermare. Ringrazio Patrizia Mirigliani, patrona di Miss Italia, ringrazio Giulia Crivelli. Ogni volta che si nomina Giulia Crivelli arrivano i messaggi: Giulia Crivelli tutti i giorni. Vabbè, allora ieri era Ceci tutti i giorni. Leonardo, noi possiamo anche andarcene a fare delle vacanze di 18 settimane, cosa che tu tra l'altro auguri per te stesso, caro Leonardo, ma spero anche per me. Poi. Io sono contento che Giulia Crivelli abbia tutti questi complimenti invece di utilizzare questo fatto pro domo mia. Beh, sappiate che mia mamma è la vostra biggest fan, ascolta sempre. Ti ringrazio, perché in genere riceviamo solo insulti, quindi insomma, è bello, è vero Leonardo, insultano solo noi nella nostra trasmissione e fanno elogi agli altri. C'è qualcosa che ci sfugge. Vabbè, dai, andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Una settimana a prendere per il culo Briatore e adesso il modello billionaire è diventato quello di riferimento per il governo, per i mezzi pubblici. Incredibile. Happiness. Beh, ieri il direttore dell'Istituto Mario Negri ha detto che grazie al battage che è stato fatto a aumentare la tensione negli ultimi 15 giorni, i dati stanno scendendo. Chi ha insultato questa modella non capisce nulla di haute couture. La bellezza sta proprio nell'imperfezione e il fisico fa la differenza. Non importa la faccia, importa il fisico. Dopodiché nei backstage la faccia la cambi. Allora, caro Leonardo, vedi, la mattina quando mi guardo allo specchio mi vedo bellissimo, è vero. Non sono io che lo dico, è un ascoltatore che ci scrive. Questo tema della bellezza è molto interessante. Noi siamo legati a un'idea di bellezza che è quella greca, classica. Sì. E leggevo che Gesù, dai primi cristiani, non era immaginato come molto bello. Poi i papi, quando diedero nel Rinascimento l'incarico di dipingere Gesù, diedero proprio l'incarico di dipingerlo bello, quindi diventò con gli occhi azzurri, spesso biondo, e invece di creare un'immagine negativa del diavolo, che invece nelle scritture è considerato come il più bello degli angeli. Quindi anche dal punto di vista religioso c'è stata l'idea che per incentivare il culto bisognava dipingere, e fu questa un'indicazione data proprio dai papi, dipingere Gesù come molto bello, mentre i primi cristiani non lo immaginavano così. Quindi la bellezza ha sempre avuto un certo appeal, la bellezza in senso greco, classico. Per il momento di storia, ma hai visto che perde di cultura? Ma ragazzi, ma ieri il dio Pan, oggi da dove deriva Panico? Ti prego, ci puoi regalare una perla di cultura tutti i giorni così? Tanto guarda, apri la Treccani il giorno prima, ti studi quelle 10 righette e vieni qui e ci regali. No, caro mio, questo sulla bellezza deriva da un lungo articolo di 10 pagine, che ho letto qualche giorno che fa. È il libro più lungo che hai letto, è il libro. No, più... è un articolo, non è un libro. Sì, scherzo. Che ho letto perché sto scrivendo lo spettacolo nuovo e sto facendo proprio un pezzo sul culto del corpo. A proposito, come sta Alessandra Tedesco col suo cacciatore di libri? Punti ancora al suo posto quest'anno? Vuoi scalzarla? Oh. Ma pensa che Alessandra Tedesco, l'estate scorsa, questa che stiamo ancora vivendo, mi aveva proposto di partecipare nella sua trasmissione estiva, fare una piccola cosa insieme a lei, ma io proprio per rispetto della sua cultura enciclopedica e sconfinata ho declinato l'invito, perché sicuramente avrei sfigurato nei suoi confronti. Potrò farlo da solo, in modo da non sfigurare rispetto a lei, questo sì, io non voglio confronti, non voglio collazioni, come si dice in termine giuridico, no? Documento, niente, ha ripreso il progetto di continuare gli esami di giurisprudenza, questo l'abbiamo capito con il lockdown, ieri documento e oggi colazione. Salutiamo un sindaco, Gerre De Caprioli, Cremona, che origine ha tra sindaco Michel Marchi, buongiorno. Buongiorno a voi. Gliel'avranno chiesto in un milione di persone che origine ha questo nome del comune, Gerre De Caprioli. Gerre in dialetto cremonese significa terre, sì. E Caprioli era una famiglia che aveva dei possedimenti. Quindi non c'entra niente. Allora, è successo che lei personalmente o qualcuno della polizia municipale. Sì, personalmente. Ah, sì, ha trovato un frigorifero, non è il frigorifero di Manera vuoto, un frigorifero abbandonato in maniera impropria dove? Davanti alla piazzola di raccolta dei rifiuti del mio comune. E non si fa, non si fa. No, non si fa, ma non solo davanti alla piazzola, non si fa dappertutto. Non si fa dappertutto, certo. E quindi lei che cosa ha fatto? E quindi, essendo non la prima volta che capitava, ma essendo questo frigorifero particolarmente voluminoso e tra l'altro abbandonato in una fascia oraria anche abbastanza, insomma, da noi si dice un po' antisgamo, perché se tu ti presenti a 11:30 del mattino di un giorno feriale davanti alla piazzola, cioè, ti vuoi proprio farti beccare, e allora ho pensato che era il momento di dare un segnale un po' diverso della solita sanzione amministrativa, sì, pecuniaria, e allora l'ho preso, l'ho caricato su un camion e gliel'ho riportato a casa. Ah, con questa dedica, caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo, poi ti mando anche la multa. Capito? Esatto, firmato, esatto. Sindaco, il sindaco. Beh, ironia, come l'ha presa questo signore? Non lo so, io non l'ho sentito, non ho ancora avuto modo di avere disquisizioni con lui, tra l'altro io è di un altro comune, quindi non ho volutamente mai segnalato pubblicamente né il comune né l'identificazione, anche perché poi col clamore mediatico che ha preso la questione non sarebbe stato neanche corretto mettere alla gogna una persona che si è trovata a suo malgrado sbagliando in una situazione evidentemente mediaticamente un po' importante, però tanti altri l'hanno fatto e non hanno avuto lo stesso trattamento, secondo me adesso ci penseranno due volte prima di farlo. Beh, insomma, ci sono, Leonardo, vari sindaci, no, che prendono talmente a cuore la questione, quello dello smaltimento dei rifiuti, che appunto si sobbarcano anche questa. Insomma, avrà perso una mezza giornata lei per... No, meno. L'ho fatto di buon mattino col fresco e in una mezz'oretta abbiamo fatto tutto, anche perché insomma, quando va a portare un frigo indietro a una persona non sai mai come reagisce la persona, quindi non è che sono stato molto tempo sotto casa sua. Gli ha lasciato. Diciamo, comunque, l'ho scaricato in fretta. Bisognerebbe incentivare le persone a frequentare le oasi ecologiche, mi pare che si chiamino così. Sì, e perché sono dei posti. Ma sono belle da frequentare, io vado sempre volentieri. Cioè, vai in gita? Perché vado in gita nell'oasi ecologica. Anche perché in quella che frequentavo. Interessante. Sì, certo. Sì, sempre qualcosa di interessante. E in più, in quella dove andavo prima, c'erano delle persone che riciclavano gli oggetti che potevano essere riparati. E quindi vedevi cose arrivate a fine ciclo che invece poi ritrovavano nuova vita. Capita. Poi è bella. Sì, sì, secondo me è uno dei posti più belli dove porti, si può andare. Ti porti il pranzo al sacco anche, Leonardo? Ti porti Io frequento volentieri l'oasi ecologica, anche quando non devo buttare niente. Vado a fare un giro. Sono nuove forme di turismo con il Covid, il lockdown, magari una bella gita all'oasi ecologica. Sindaco, a quanto ammonta la multa? Giusto per capire. Credo, ai fini, adesso dovrei verificare con la polizia locale, ma credo che sia da un minimo di 300 a un massimo di 3.000. Urca. Che poi dovrà essere parametrata, però penso che sia quello l'importo corretto. Almeno 300 euro, tutto per non aver fatto un servizio che magari è anche gratuito. No, è sicuramente gratuito, perché si paga all'interno della tariffa dei rifiuti. Della TARI, tutti noi paghiamo la TARI nel nostro comune e questo serve. Quindi questo signore bastava che chiamasse, prenotasse come tutti e glielo portavano, esatto, portavano via da casa. Sì, sicuramente. Addirittura penso che ormai coi RAE, delle apparecchiature elettroniche, gli elettrodomestici, quando se ne compra uno nuovo viene automaticamente smaltito quello vecchio. Sì, ma questo vuol dire che c'è molta ignoranza, perché non credo che nessuno sia contento di beccarsi una multa, oltre a dover appunto portare un frigo di nascosto in ore strane. Se ci fosse un po' meno ignoranza, con una telefonata uno lo farebbe a lei, no? Sì, io sto sempre anche molto sul rispetto reciproco, nel senso che poi questa cosa, al netto questa, ma può essere parametrata su qualsiasi rifiuto, anche smaltiamo in altro modo, bisogna considerare che il rispetto per le persone altrui, quelle che lavorano, amministratori, operatori, quant'altro, oppure anche rispetto per l'ambiente, perché poi qualcosa ai nostri figli dovremmo pur lasciare, e i rifiuti sono una componente fondamentale su quello che decideremo di lasciare, certo, ai nostri figli. Certo. In ogni caso, sì, L'anno scorso sono stato a Ecomondo e sono veramente rimasto stupito da tutto quello che si può fare con dei rifiuti, quindi è una gita utile da fare, secondo me, anche proprio per cominciare a raccogliere bene e a differenziare. Perché ricordiamo che andavi nello stand di Radio 24 da Deborah Rosciani e Mauro Meazza a disturbarli durante la diretta, tu a Ecomondo, ricordiamo benissimo questa situazione. Sì, questo è vero. Sì. Sindaco, la ringraziamo, Michel Marchi, sindaco di Gerre dei Caprioli. Non abbiamo avuto tempo di ricordare, ma era il sindaco che già una volta era venuto ospite a Radio 24, credo alla Zanzara, perché suggeriva, anche da noi, perché suggeriva di mangiare le nutrie, visto che sono tante, in Argentina per esempio le mangio. Vabbè, ma insomma, no, sindaco, ne ha mai mangiata una poi dopo? Ma io, certo, regolarmente, gliene ho messa una anche in frigo omaggio quando gliel'ho riportato. Porca miseria. La nutria omaggio, no dai, questa spero che sia una battuta per il frigo riportato. Dai, andiamo alle informazioni sul traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Milan, sto andando a fare il test sierologico chiesto dal datore di lavoro. Se mi beccheranno positivo, io, mia moglie e i miei tre figli verremo bloccati in casa per 15 giorni fino al secondo tampone. Che Dio me la bandi buona! Va bene, ma il sierologico, tu lo fai il sierologico, Leonardo? No. Ma fino ad ora non ha avuto motivo e necessità, insomma. Sì, insomma, perché uno, esatto, se non è, perché uno deve fare il sierologico se non è in una categoria per cui lo deve fare? Ma insomma, vabbè, dai, andiamo. Ma magari potremmo chiedere tutto questo all'ospite. Non lo so se l'ospite sa anche questo, sa tutto. D'altronde è il mitico nostro virologo di fiducia, il professor Piero Picchio, che torna con noi. Ne abbiamo molto bisogno di chiarezza, caro professore. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sono il professor Piero Picchio, sì, virologo. Lo star del momento, ormai da un anno sono tornato. Allora faccio volentieri una pausa dal mio tour estivo per parlare con voi. Sono in tour per l'Italia e il governo mi ha scelto come consulente scientifico per valutare la situazione delle scuole. Bene. Faccio tutte le prove perché il sistema funzioni. Quindi confermo che funziona tutto. La scuola può riaprire, ma potrebbe anche richiudere in qualsiasi momento. E anche il banco con le ruote è una grande idea, soprattutto l'ho trovata molto utile per spostarmi da una scuola all'altra. Allora, il banco con le ruote è il futuro della mobilità. E sì, infatti oggi, sì, sempre a bordo del mio banco con le ruote, sono tornato qui da voi per risolvere i dubbi degli ignoranti all'ascolto. No, ascoltatori si chiamano, per la verità. Ascoltatori ignoranti. Quasi tutti quelli all'ascolto, tutti voi, anche lei Milan, non sapete nemmeno cos'è un citocromo. Citocromo. Io lo so, voi no, non sapete cos'è un citocromo. Aspetti un attimo, cito. Non sapete cos'è un citocromo e pretendete di tornare alla normalità. Allora, prima impari cos'è un citocromo, poi torna alla normalità. Io per esempio lo so, perché ho studiato. Vabbè. Io lo so, voi no. Avete bisogno di cercare su Wikipedia. Sì. Effettivamente così. Ignoranti. Vabbè, ma scusi, Wikipedia è giusto, però non se ne allora, non mi si dica bulli, almeno così. Adesso che ha cercato, sì, su Wikipedia, mi, sì, dica la formula minima del cianuro di argento, la sa? Allora. Tic-toc, tempo scaduto. No, c'è di argento. Non sapete la formula minima del cianuro di argento, cianuro ignoranti. Di argento. È il composto chimico, AGCN. Guardi, lasciamo perdere il signor Wikipedia, invece che Alessandro Milan, Alessandro Wikipedia. Sentiamo un po', ignorantoni vacanzieri. Ma no, ma cosa avete fatto quest'estate? Cosa avete fatto quest'estate? Avete sfogliato il giornale del bar leccandovi le dita per girare pagina? No. Avete rubato la cannuccia al vostro amico per assaggiare la granita? Avete ballato Maracaibo sui tavoli del billionaire? È bella la libertà, godetevela pure, visto che presto ricominceremo a stare a casa. No! Tutti a casa! Allora, adesso se volete rispondo a qualche domanda. Per esempio mi scrive Lucia da Cremona, chiede se si può prendere il Covid più di una volta. Lei sa che è una domanda che spesso le persone si sono poste. Come no? Allora, ci dia una risposta chiara. Cara Lucia, ignorante da Cremona, secondo te, cara Lucia ignorante, perché si chiama Covid-19? Perché puoi prenderlo fino a 19 volte. No, questa, professor Picchio, mi sembra di poter dire, lei col suo citocromo e argento 19. La cosa migliore è stare a casa. Adesso ti telefoniamo sul fisso, cara Lucia ignorante, e vediamo se ci sei a casa a impastare la pizza. Allora, Ale, poi c'è Alessandro da Alessandria che chiede quando arriverà il vaccino. Allora, caro ignorante. Ma la app, caro professor Picchio, su ignorante, vede che dobbiamo. C'è ancora, professore? Sì? Professore. Ecco, avete sabotato la scienza. No, non l'abbiamo avete sabotato la scienza perché volete andare in giro a ballare, a fare gli assembramenti. È comodo il negazionista Milan. No, ma che negazionista? Il re della movida. Vero. Insomma, questo Alessandro d'Alessandria cosa vuol sapere? Vuole sapere quando arriverà il vaccino. Bene. Allora, caro ignorante, il vaccino arriverà nel 2021, forse 2022, 2025, non se ne parla più, facciamo 2026. Comunque sicuramente arriverà prima che la tua mente partorisca una domanda intelligente. No. Nel frattempo voglio darti un consiglio, caro Alessandro, super diffusore di ignoranza. Non è che se continui a chiedere quanto manca il vaccino arriva prima. Invece puoi fare qualcosa di molto utile mentre lo aspetti. Per esempio? Cioè? Stare a casa, metterti la mascherina anche a casa, E infine Marta da Venezia dice che al momento in Italia siamo messi meglio che in Europa, quindi possiamo stare tranquilli. Ah, cara Marta da Venezia, detta anche so tutto io. Non è vero che si chiama così. Le tue dichiarazioni così semplicistiche, direi che siamo messi molto peggio che in tutto il resto del mondo, se gli altri italiani sono ignoranti come te. Oh, mamma mia. Che fatica essere un luminare della scienza. Ogni tanto penso che sarebbe molto più facile essere uno di voi, altri sempliciotti ignoranti. Sempliciotti ignoranti che non finiscono un cruciverba neanche se fanno quello facilitato. Anche lei sarà uno di quelli che fa i cruciverba facilitati. Io faccio le cornici concentriche, mi vengono diciamo 8 volte su 10, se no c'è sempre Wikipedia, le definizioni. Non so, lei ha bisogno del cruciverba facilitato anche per il simbolo del rame. Simbolo del rame, C, ha bisogno della C iniziale. Questa la so e non ho guardato neanche Wikipedia, caro professor Picchio, capisce? Allora guardi, io ora la saluto perché sono venuti a prendermi un paio di amici e andiamo a fare un giro in collina a bordo dei nostri banchi con le ruote che io trovo straordinario. Grazie per questa ospitalità non retribuita, devo dire, peraltro. No, meno male, visto che ha dato degli ignoranti a tutti i nostri ascoltatori che pongono delle domande sensate che si pongono tutti gli ascoltatori e tutti gli italiani. Ricordate soprattutto che il Covid-19 si può prendere fino a 19 volte. Permetto di dubitare di questa sua, come dire, uscita poco scientifica, se mi permette. Ma questo lo dice lei. Io ho studiato, posso dire quello che voglio. Questo lo dice lei, però è un'altra. Questo lo dice lei, vale anche per lei, professor Picchio. Questo lo dice lei. Vale per la mia cultura che lei non ha. Va bene. La mia preparazione scientifica. La ringraziamo moltissimo, professore. Venga a ritrovarci, ma forse anche no, quando vuole. Intanto noi, che dire, ci fermiamo qui anche per oggi. Diamo la mail 100milan@radio24.it. questa è la mail ufficiale per scrivere tutto quello che volete, soprattutto insulti, come spesso siete capaci di fare. Vi ringraziamo moltissimo, ci ritroviamo domani insieme a Leonardo Manera alle ore 9.